partendo da alcuni titoli per orientarci, ma naturalmente non solo, perché i temi trattati saranno molti di più. Uno di quelli è sicuramente il caso Aldrovandi, l'ira di Alfano dopo gli applausi agli agenti condannati per la morte del ragazzo. E poi Toti di Forza Italia, Radio 24, dice il caso Schulz montato in chiave anti-Berlusconi e dice il nostro obiettivo, la quota del 20%. Drammatiche notizie dall'est dell'Europa, Kiev annuncia, l'est del paese è fuori dal nostro controllo. Putin intanto dice il 9 maggio, festa della liberazione, di fatto della vittoria, senz'altro la più importante festa russa. Il 9 maggio dunque dalla Piazza Rossa il presidente russo si sposterà in Crimea, quindi nella penisola appena conquistata. Infine i grandi temi dell'economia, Siemens alla battaglia per Alstom, i tedeschi rilanciano dopo la proposta americana. Revoco l'appuntamento che avevo dato al sindacato autonomo di polizia per martedì a Roma al Viminale. Così il ministro dell'interno Angelino Alfano, dopo gli applausi dei delegati al congresso del SAPA agli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi. Solidarietà per una vicenda indegna e inaccettabile. Il governo reagisce duramente all'ovazione di oltre 5 minuti tributata dalla platea del congresso nazionale del SAP per 3 dei 4 agenti condannati per la morte del 18enne Federico Aldrovandi. Matteo Renzi ha chiamato ieri sera Patrizia Moretti, la madre del giovane ucciso nel 2005 a Ferrara durante un controllo di polizia, e le ha offerto tutta la vicinanza sua e dell'esecutivo, mentre il ministro dell'interno Alfano ha parlato di gesto gravissimo che offende la memoria di un ragazzo che non c'è più e rinnova il dolore della sua famiglia. Alfano, che ha poi annunciato: la signora Aldrovandi incontrerà il capo della polizia alle ore 16 e vi è un contemporaneo consiglio dei ministri, se non ci sono spostamenti d'orario, se sarà compatibile con l'orario del consiglio dei ministri avrò piacere anch'io di salutare la signora. Annullato invece l'incontro tra Alfano e il sindacato autonomo di polizia, mentre il capo della polizia Alessandro Pansa ha già preso le distanze da quanto accaduto. Condanna arriva anche da molte forze politiche, tra cui PD, SEL, Movimento 5 Stelle e Nuovo Centrodestra. Diversa invece la posizione della Lega. Io sto con i poliziotti, con i carabinieri, con chiunque rischia la vita per difendere cittadini, scrive su Facebook Matteo Salvini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. C'è un ragazzo morto, tutti i giorni muoiono persone giovani sulle strade, ma non per questo la colpa è delle strade. Se uno legge gli atti giudiziari si rende conto che la causa della morte di Federico Aldrovandi sono altre, non quelle stabilite dalla sentenza. Non arretra di un millimetro Gianni Tonelli, rappresentante nazionale del SAP, intervenuto questa mattina a 24 mattino, naturalmente intervistato da Alessandro Milan. Di fronte a questo, voglio dire, al dolore di una madre, noi non abbiamo nulla da eccepire. Il problema è questo, non significa nulla, perché confonderemo la verità con il pietismo. Voglio dire, tutti i giorni muoiono delle persone sulle strade giovani, ma non per questo la colpa è delle strade. Voglio dire, se uno va e legge i fatti e gli atti processuali si rende conto che la causa della morte di Federico Aldrovandi vi sia non un ragionevole sospetto, ma qualcosa di più, compresi quelli che erano i consulenti tecnico d'ufficio della magistratura, per ritenere che le cause siano altre. Cioè? I colleghi sono stati condannati per eccesso colposo, perché si è ritenuto che la posizione che è insegnata nelle scuole di tutto il mondo di polizia per fermare una persona che dopo aver assunto sostanze stupefacenti è in una situazione di non autocontrollo, ed è stata questa la causa per la quale una cittadina ha telefonato al 113, perché vi era un ragazzo che stava compiendo atti di autolesionismo, stava urlando e si stava facendo del male da soli. I colleghi sono andati, sono stati aggrediti dal ragazzo, perché lei era lì, lei ha applaudito, era uno di quelli che ha applaudito convintamente. Sì. Non mi nascondo dietro un dito. No, è chiaro. Semplicemente considero i colleghi condannati per errore giudiziario. Quindi stiamo proseguendo questa strada. Ci sono i presupposti, riteniamo noi, anche un domani, per riscrivere non solo la dinamica storica degli eventi mediatica, ma anche per riscrivere un'altra verità processuale, e stiamo proseguendo. Se non siamo più in Italia neanche liberi di solidarizzare con un collega che riteniamo condannato ingiustamente, allora è meglio che chiudiamo la baracca e ce ne andiamo a casa tutti. E a questo tema, a questo dibattito, è dedicato il punto dell'editorialista del Sole 24 Ore, Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Ha fatto bene il premier Renzi a esprimere solidarietà alla mamma del ragazzo morto a Ferrara nel 2005. Gli applausi degli agenti di polizia riuniti a congresso ai loro colleghi che hanno provocato la morte di quel giovane e per questo sono stati condannati è intollerabile. Purtroppo si inserisce in un clima vagamente avversivo che sta segnando la vita pubblica e che la campagna elettorale non aiuta a dissipare, anzi. Occorre fare attenzione a non superare i limiti. Non è questione che riguarda la libertà di pensiero, bensì il rispetto di regole fondamentali. Questo vale per i poliziotti, dovrebbe valere anche per i politici, almeno in alcune circostanze. Il fatto che Berlusconi sia libero di fare la campagna per le europee, nonostante la condanna, ad esempio, non significa che egli sia altrettanto libero di attaccare il capo dello Stato e accusare la magistratura in una spirale senza limiti. È proprio l'essere stato condannato per un reato grave, quale che sia l'opinione di ognuno riguardo quella sentenza, a fare la differenza. Certe accuse diventano oggettivamente eversive e alimentano un clima pericoloso. E questo era Stefano Folli. Naturalmente su questo tema e sugli altri ritrovate tutto sul sito radio24.it. E ora l'agenda politica. Consiglio dei Ministri, tra i temi quello della rivalutazione delle pensioni, così annunciato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ma naturalmente anche quello della pubblica amministrazione e delle riforme. Sentiamo. Mobilità interna, qualità del servizio, licenziabilità dei dirigenti, premi legati ai risultati sono alcune delle novità previste dalla riforma della pubblica amministrazione che nel pomeriggio sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti concreti, un decreto ed un disegno legge delega, arriveranno però in un secondo momento. Oggi infatti il governo si limiterà a presentare le linee guida di quella che secondo Renzi sarà la riforma più difficile da realizzare. Per affrontare la burocrazia servirebbero i Marines, ha ironizzato ieri sera il Premier. Il mio è il governo del fare, non resto sulla seggiola a tutti i costi, lo faccio solo se posso cambiare l'Italia, ha però ribadito stamattina Renzi, che in un'intervista per la prima volta ha ammesso che nel 2013 ad ottenere più voti fu il Movimento 5 Stelle. Ora alle europee andrà diversamente, pronostica però il segretario democratico. Rispetto il Movimento 5 Stelle e chi vuole votare Grillo, ma votare Grillo è come abbaiare alla luna, sostiene Renzi, secondo il quale per cambiare l'Italia c'è bisogno di gente competente e non di chi fa spettacolo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si è parlato naturalmente di campagna elettorale in vista dell'Europa e di Europa questa mattina con Toti, il responsabile, il portavoce, Giovanni Toti, il portavoce di Forza Italia, ha parlato dunque dell'obiettivo del partito, ma anche della questione Schulz, o meglio della polemica innescata da Silvio Berlusconi con alcune dichiarazioni sulla Germania. Allora, Toti sostanzialmente dice la questione non è con la Germania, ma c'è una questione piuttosto con il presidente uscente del Parlamento europeo Schulz. Sentiamolo. Diciamo nell'equivoco sulle fosse, abbastanza forte questa provocazione, non è piaciuta in Germania e non solo in Germania. Non mi imbarazza per nulla, è stata strumentalizzata politicamente e la verità che voleva sottolineare Berlusconi, che resta sacrosanta, è che in Italia chi vota il PD vota per Schulz, che certamente non è coerente con una visione d'Europa che noi abbiamo e che vorremmo, ovvero è il custode dell'ortodossia europea del rigore e viene da quell'Europa che oggi governa. Vabbè, l'Europa a guida tedesca, diciamo sostanzialmente. È ancora peggio dell'Europa a guida tedesca Merkel, è un'Europa a guida tedesca socialdemocratica, quindi con un quid in più di burocrazia. E ancora, cosa succede sotto la soglia del 20%? Sentiamo Toti. Sotto il 20 che cosa succede? Se non avete il 2 davanti. Ma no, non succede assolutamente nulla, se qualcuno mi chiede quale ritiene che sia l'obiettivo accettabile, io dico che il 25 sarebbe un grande trionfo, sopra il 20 lo ritengo nella situazione di mercato della politica attuale un risultato accettabile, sotto il 20 si vedrà. Occorrerà fare delle riflessioni, sono riflessioni che andranno fatte comunque dopo queste elezioni europee che resteranno, vedrete, una chiave di volta della politica. Cosa intendi per riflessioni? Intendo che la politica si sta molto rinnovando, che anche Forza Italia ha cominciato un percorso di rinnovamento importante per partire dal nome che è tornato Forza Italia. E ora la cronaca italiana, è stato riaperto il caso del delitto di Garlasco, i giudici chiedono nuovi accertamenti per l'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto del 2007. Siamo tranquilli perché così si dimostrerà l'innocenza di Alberto. È stato questo il commento dei difensori di Alberto Stasi, imputato per l'omicidio di Chiara Poggi, in merito alle decisioni della Corte d'Assise d'Appello di Milano di riaprire il caso e di disporre l'integrazione di alcuni accertamenti e di nuovi esami. I giudici hanno accolto tutte le richieste avanzate sia dal procuratore generale che dalla famiglia Poggi. Tra i principali accertamenti sono stati disposti gli esami mai effettuati per individuare il DNA da un capello corto castano chiaro trovato nel palmo di una mano della vittima. Quanto alla ripetizione dell'esperimento della cosiddetta camminata di Stasi sulla scena del crimine, estendendolo anche ai primi due gradini della scala che porta alla cantina su cui fu trovata Chiara priva di vita e che Alberto dice di aver sceso, Stasi è pronto a rientrare nella villetta se glielo chiederanno, hanno detto i suoi legali, già nominati intanto i periti. I genitori di Chiara, Rita e Giuseppe Poggi, si sono dichiarati soddisfatti per la decisione di Milano di riaprire il caso. L'udienza è stata rinviata al 14 maggio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente ucraino ad interim, Alexander Turchynov, ha ammesso oggi che Kiev ha perso il controllo delle regioni dell'Ucraina sudorientale, di Donetsk e di Lugansk. Le autorità e le forze dell'ordine non sono in grado di ottenere il controllo delle regioni e dei loro capoluoghi, ha riconosciuto Turchynov. Ha aggiunto anche che ci sono stati altri tentativi di destabilizzazione nelle regioni di Kharkov, Odessa e Kherson. E rimanendo su questo dossier, la notizia che Putin potrebbe essere per la prima volta in Crimea dopo l'annessione alla Russia il 9 maggio. Potrebbe dunque assistere alla parata militare in Piazza Rossa e poi alle celebrazioni del 70° anniversario della liberazione di Sebastopoli dalle truppe naziste. Lo riferisce questa mattina l'autorevole quotidiano Kommersant, citando una fonte dell'amministrazione presidenziale. Uno sciopero generale è invece osservato in queste ore nella cittadina araba di Furdis, a sud di Haifa, in Israele, dove ieri ignoti hanno profanato una moschea con scritte oltraggiose sulle pareti esterne. L'attacco è attribuito ad elementi dell'estrema destra ebraica. Nella vicina cittadina di Yokneam, ignoti hanno forato i pneumatici dell'automobile di un imprenditore arabo. Il capo dello Stato, Shimon Peres, ha chiesto scusa alla popolazione araba per questi episodi che ha definito vergognosi. Ancora, la società tedesca Siemens ha rilanciato la sua offerta per la divisione energetica di Alstom rispetto alla proposta preliminare fatta nello scorso fine settimana. In una lettera indirizzata al consiglio d'amministrazione di Alstom, che si è pronunciato ieri in favore della proposta della concorrente General Electric, Siemens ha valutato in una forchetta da 10,5 a 11 miliardi di euro le attività energetiche del gruppo francese. Il servizio. La partita su Alstom continua, anche se l'americana General Electric conserva una lunghezza di vantaggio sui concorrenti tedeschi di Siemens. Il consiglio di amministrazione del gruppo francese ha infatti deciso ieri sera all'unanimità di scegliere l'offerta di General Electric per la cessione delle sue attività nel settore dell'energia, ma ha anche commissionato un'expertise indipendente sul progetto del colosso americano. Durerà un mese, durante il quale Alstom non potrà sollecitare nuove offerte, ma potrà invece prendere in considerazione eventuali ipotesi alternative, come quella appunto di Siemens, che ha chiesto proprio 4 settimane per esaminare i conti della società francese e presentare un'offerta dettagliata. General Electric immagina di creare in Francia un leader mondiale dell'energia, posizionando nel paese ben 4 centri decisionali mondiali. Siemens contrattacca proponendo di trasferire ad Alstom l'intero settore trasporti, di cui sarebbe azionista con il 19%, in cambio del comparto energetico del gruppo francese. Alstom ha quindi espresso chiaramente la propria preferenza, senza però ignorare le richieste del governo. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ecco dunque, dal ruolo dei tedeschi nella vicenda Alstom ha una storia tedesca completamente diversa, almeno non ce la saremmo aspettata così dolorosa, con Carlo Genta. Ieri a quest'ora ci siamo trovati per dire del super match, che termine abbiamo usato, il fantamatch, insomma non è stato esattamente così. Carlo Genta. Doveva essere la partita più bella del mondo, Gigi, invece come tutte le guerre di religione, perché anche questa è stata una battaglia di religione calcistica, è finita in modo molto cruento. Con la sconfitta di 0-4, sconfitta di Guardiola, del tiki-taka, del football filosofico, come ha detto Mourinho. Siamo molto contenti perché ha vinto Carlo Ancelotti, che ha fatto un capolavoro con questo Real Madrid, che non dimentichiamolo, un anno fa aveva preso più o meno gli stessi gol dal Borussia Dortmund, e adesso va in finale per sognare la decima, obiettivo mitologico a Madrid, un'ossessione, e ben ha la possibilità di prendere questa coppa. Ma quello che è successo ieri sera per l'appunto è stato qualcosa di assolutamente imprevedibile, perché 3-0 dopo 34 minuti, la partita non è praticamente mai esistita, e un Real Madrid che ha distrutto le idee di calcio di Guardiola, tanto che oggi in Germania polemiche, ci sono tanti interrogativi sulla reale utilità di questo modulo per il Bayern. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto giorno riparte dallo 0-4 di Monaco di Baviera, naturalmente, con Carlo Genta. Dicevamo complimenti, chapeau e come a Ancelotti. Di sicuro la sensazione, insomma, è un po' che gli allenatori escono un po' tutti ridimensionati. Alla fine scendono in campo i giocatori, si vede, qualcuno dice. Qualcuno esce ridimensionato. Guardiola era un mito fino a pochi tempo fa. La leggenda, no? L'inventore del tiki-taka, quello che ha reso una squadra icona, il Barcellona. Indubbiamente in questo momento questo modulo, questa filosofia non è poi così di moda. Non dimentichiamo che il primo atto dell'omicidio si era consumato un anno fa, quando lo stesso Bayern, allenato dal capostipite degli allenatori tedeschi Jupp Heynckes, già licenziato a gennaio perché gli hanno detto: guarda che arriva Guardiola, quindi tu a fine stagione ti levi dalle scatole, e lui ha detto sì va bene, e nel frattempo ha vinto campionato, coppa e coppa dei campioni, quindi triplete, poi è andato via adesso dopo aver battuto 7-0 nei due confronti il Barcellona, perché il Bayern Monaco l'anno scorso eliminò il Barcellona rifilandogli 7-0. Quest'anno invece ha subito per contrapasso questo destino, e vabbè, Ancelotti è un allenatore che, come tutti i grandi, è amatissimo dai suoi giocatori, come lo è Mourinho, che questa sera nell'altra semifinale affronta l'altra squadra di Madrid, cioè l'Atletico Madrid. Potremmo avere in finale o un derby cittadino, prima volta nella storia della Champions League, oppure un altro tipo di derby, forse ancora più interessante, tra il Real Madrid e il suo tecnico del passato, cioè José Mourinho. Due entità che non si sono amate moltissimo. Senti, a proposito di Mourinho, una battuta, commenti di Mourinho, sicuramente avrà detto qualcosa su questa semifinale. No, perché ha parlato prima della partita, ha fatto la sua conferenza stampa prima della partita, però ha fatto un bel discorso sugli allenatori filosofi, cioè oggi ci sono in giro molti allenatori filosofi, però se comincia a prendere un sacco di gol la filosofia sta a zero, forse è meglio vincere le partite. Profetico il Mourinho pensiero. Grazie a Carlo Genta, naturalmente lo ritrovate tra meno di un'ora a questo punto. Ora, primo maggio, concerto del primo maggio, in realtà uno non basta più, sentiamo. Le nostre storie, accordi e disaccordi delle nostre radici, della nostra memoria e del nostro domani. Questo è il tema dell'edizione 2014 del tradizionale concerto del primo maggio di Roma. Un omaggio alla storia del nostro paese attraverso la musica di Clementino, Rocco Hunt, Banda Bardò, Piero Peluti, Romancino, Modena City Ramblers, Stefano Di Battista e 50 sax del Conservatorio Santa Cecilia, Francesco Di Bella, Taran Project con Daniele Ronda, Perturbazione, Bruno Rissas, Enrico Capuano, P-Funkin' Board, Levante e Alberto Bertoli. Ma forse ancora più ricco quest'anno il programma del primo maggio di Taranto. Ci saranno Vinicio Capossella, la banda della Posta, Caparezza, After Hours, Paola Turci, Sud Sound System, Tre Allegri Ragazzi Morti, No Braino, Après la Classe, Filippo Graziani, Ilaria Graziano e Francesco Forni, Diodato, Rezzofonic, Fido Guido e Rockin' Roots, Mamma Maria se Don Ciccio. A condurre l'evento saranno Luca Barbarossa, Andrea Rivera e Valentina Petrini. Rinviato invece per maltempo l'evento di questa sera, aspettando il primo maggio a Teramo. Erano attesi Eugenio Finardi, Modena City Ramblers, le luci della centrale elettrica e anche qui Levante e Clementino. La nuova data verrà comunicata nelle prossime ore. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua dunque, sono le 13:20 minuti, adesso abbiamo una pagina che direi giudiziaria, perché raccoglie vari temi, varie questioni che appunto hanno in comune delle decisioni dei giudici. Abbiamo sentito tra l'altro servizio, la ripresa, insomma la nuova ripresa del processo Garlasco. Adesso però con Raffaella Calandra, che intanto saluto, buongiorno Raffaella. Ciao Gigi, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Vorrei ripartire da Cesano Boscone, che è questa provincia appunto milanese dove tutte le attenzioni, soprattutto della stampa internazionale, insomma, scopre anche l'Interland. Ancora ieri, no, non so nulla, il leader di Forza Italia, Berlusconi, diceva non so ancora quando andrò. Che sviluppi? Ma questo in realtà era ben chiaro e aveva forse bluffato Berlusconi dicendo non so ancora quando andrò, perché già si sapeva alla vigilia e oggi questa mattina è stato confermato che venerdì 2 maggio l'ex premier comincerà il suo lavoro, il suo percorso di riabilitazione qui all'interno della struttura ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove mi trovo in questo momento, e fa parte di quel percorso riabilitativo che è stato stabilito dalla Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo la sua condanna definitiva per frode fiscale al processo Mediaset. Il Tribunale di Sorveglianza ha stabilito per lui 4 ore a settimana, comincerà questo venerdì, poi ancora 4 ore il venerdì successivo, sempre all'interno di questa struttura, e si occuperà in particolar modo di un gruppo di malati di Alzheimer. Comincerà il primo giorno rendendosi conto in qualche modo delle attività che si svolgono, ma poi progressivamente lui stesso parteciperà appunto alle varie attività che sono di assistenza e che sono anche di animazione, e dovrà essere solo all'interno di questo reparto, quindi anche senza scorta, che resterà alla di fuori. Una struttura difficile, con persone particolarmente fragili, una struttura dove non ci sarà spazio per barzellette e soprattutto non ci sarà spazio per la campagna elettorale, come ha ribadito il direttore della struttura Paolo Pigni questa mattina in un incontro con la stampa, e lo ha detto lo stesso Silvio Berlusconi, che ieri per un'ora è stato qui in questa struttura per prendere un primo contatto con la struttura. Ecco, dunque ti chiedo anche un'altra cosa, Raffaella. Ovviamente c'è una grande attenzione, la scelta del 2, cioè incastrata tra il primo maggio e il fine settimana, forse potrebbe anche contribuire un po' a smorzare l'impatto mediatico di questo evento. Quali precauzioni ha preso la struttura, soprattutto rispetto al dovere di cronaca dei giornalisti? Allora, loro hanno ovviamente due doveri e una preoccupazione soprattutto, che è quella di tutelare anche delle persone che sono particolarmente fragili e questa che sono ovvio, dei malati, nel senso che ovviamente non devono avere l'impatto. E infatti hanno fatto capire subito che saranno particolarmente severi con quella stampa, in particolar modo con fotografi e operatori televisivi che, diciamo, si infiltreranno all'interno della struttura senza una autorizzazione. Per cui non sarà consentito alla stampa di andare all'interno di quel reparto San Pietro dove Silvio Berlusconi presterà il suo servizio, però c'è stata anche garantita la massima collaborazione sul fronte della comunicazione, e quindi addirittura ci hanno detto che ci sarà uno spazio, che è quello dove li abbiamo incontrati questa mattina, che sarà messo a nostra disposizione, metteranno anche dei video sul sito. Quindi, insomma, tutto è organizzato, tutto è pronto. Ma questo è chiaramente, va anche detto che per una struttura di questo tipo, un ospizio per anziani, la presenza di un volontario, anche se poi non può essere del tutto definito un volontario, così noto come l'ex premio, porta anche pubblicità, certo, e forse anche nella prospettiva qualche donazione, chissà. Va bene, torneremo a parlarne di questo. Vorrei da te una battuta invece sulla questione, la seconda questione, quello di un processo, credo ancora in attesa di sentenza, ma ormai a momenti, la sentenza d'appello per Dolce Gabbana. È attesa per le 2:30, 14:30, la sentenza d'appello per Domenico Dolce e Stefano Gabbana, i due celebri stilisti che sono accusati di evasione fiscale. In primo grado erano stati condannati ad 1 anno e 8 mesi, ma in secondo grado è lo stesso procuratore generale Gaetano Santamaria Amato ad aver chiesto l'assoluzione. Vengono accusati di una evasione su 200 milioni di euro per un'accusa di esterovestizione di società del gruppo, ma appunto la stessa accusa ha chiesto l'assoluzione. Staremo a vedere se la seconda sezione della Corte d'Appello di Milano ribalterà il verdetto di primo grado. Grazie Raffaella Calandra, naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri GR e nei nostri spazi informativi. E ora saluto invece Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore. Ciao Gianni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che arriva carico di una pagina 3 del Sole 24 Ore di questa mattina in edicola. Vi leggo il titolo principale: casa nelle città, Tasi verso gli aumenti. aumenti il conto rispetto all'IMU, sale in metà dei casi, al sicuro solo le abitazioni di valore più alto. Insomma, Gianni, la questione era la TASI sull'abitazione principale raggiunge lo stesso peso dell'IMU, addirittura va oltre. Qual è la situazione alla luce di questa analisi, direi molto dettagliata, che avete fatto? Sì, la situazione è che l'obiettivo dichiarato dell'addio all'IMU sull'abitazione principale, cioè quello di abbassare la pressione fiscale sugli immobili, è un obiettivo che al momento è assolutamente fallito, perché con l'eccezione delle case di valore più alto, per le quali la TASI per il meccanismo stesso dell'imposta è sempre più leggera dell'IMU, per tutte le altre, quando va bene, diciamo, si pareggia più o meno il conto dell'IMU del 2012, naturalmente, quando l'IMU sulla prima casa si pagava, ma in molti casi la situazione peggiora, cioè la TASI che verrà pagata nel 2014 è superiore all'IMU che è stata pagata nel 2012, e quindi molti proprietari di queste abitazioni si chiederanno perché mai noi abbiamo passato un anno di tempo e quasi fatto cadere un governo, insomma, sul complicato superamento dell'IMU per l'abitazione principale. Perché succede questo? Perché sostanzialmente la esigenza di introdurre delle detrazioni, ma legata all'assenza di vincoli su queste detrazioni, fa sì che i comuni alzino le aliquote come previsto dalla normativa e riservino spesso le detrazioni solo a una quota minoritaria di immobili. Pensiamo al caso di Milano: la proposta della Giunta prevede l'aliquota massima della TASI, cioè al 2,5 per mille, con detrazioni solo in due casi: una detrazione fissa quando l'abitazione ha una rendita inferiore a 350 euro, che è una rendita bassissima, vuol dire un valore catastale intorno ai 40-50 mila euro, insomma. E invece per le case di valore un po' superiore, quindi parliamo comunque ancora di monolocali, bilocali in periferia, eccetera, le detrazioni scattano solo per i redditi inferiori a 21.000 euro all'anno. Ne consegue che se io ho un bilocale in periferia e ho 25.000 euro di reddito all'anno, io pago di TASI anche il doppio rispetto a quello che pagavo di IMU nel 2012. Ma il caso di Milano è un caso replicabile, diciamo così, in moltissimi altri comuni. Senti, parafrasando uno degli slogan recenti, sembra davvero il paga e TASI. Il tuo quadro è che, se abbiamo ben capito, solamente chi ha appunto case molto importanti trarrà un beneficio da questo passaggio. Solo chi ha case molto importanti è sicuro da questo punto di vista, perché l'IMU era un'imposta fortemente progressiva, più di metà dell'IMU totale era pagata dal 10% delle case di valore più alto. A tutte queste case la TASI, che ha aliquote più basse, regala, diciamo così, sconti anche molto importanti, e quello che non pagano, diciamo, le case di valore devono pagarli gli altri, perché i conti devono tornare. E quindi, diciamo, l'esigenza di riequilibrio si spalma inevitabilmente sulle case di valore basso o medio basso, che con l'IMU pagavano poco o non pagavano nulla, perché l'IMU aveva una detrazione fissa da 200 euro che scattava sempre, il comune non poteva poteva solo aumentarla se voleva, insomma, mentre la TASI di regola non ha detrazioni. Il comune può introdurle, ma può introdurle come vuole, con i criteri che vuole, con i valori che vuole, e anche chi ha sfruttato la possibilità di introdurre aliquote aggiuntive, cioè un'aliquota aggiuntiva per finanziare le detrazioni, ma paradossalmente la norma non dice che tutti i soldi che tu prendi con questa aliquota aggiuntiva debbano andare alle detrazioni. Comune di Milano, ma anche il Comune di Roma e così via, fanno l'aliquota aggiuntiva, prendono 100, di questo 100, 40, 50, 60, lo danno alle detrazioni, il resto, diciamo, va nel bilancio comunale e determina quindi un aumento nella pressione, ulteriore nella pressione fiscale complessiva sugli immobili. Grazie a Gianni Trovati, molto chiaro, non portatore di buone notizie, ma questa non è colpa sua. Peraltro, nella pagina 3 un utile semaforo con i rischi aumenti, i verdi che diciamo leggiamo come rischi no, bassi o non rischio di aumenti, purtroppo sono solo una parte ridotta. Vi invito di nuovo alla lettura della pagina 3 del Sole 24 Ore appunto su questo spazio dedicato, naturalmente anche su sole24ore.com. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, sono le 13:33 minuti, dunque avete sentito la politica in primo piano, gli interventi, molti qui a Radio 24 questa mattina, degli interlocutori del dibattito politico nazionale, ma anche i temi europei. Ieri abbiamo trasmesso attraverso il nostro canale web quello che è stato il primo dibattito tra i quattro candidati alla guida della presidenza della Commissione europea, quindi dopo le elezioni del 25 maggio naturalmente ci sarà un giro completo appunto sui ruoli delle istituzioni, ma anche come di consueto in questa fascia oraria per vedere qual è la situazione delle borse. Stamattina le aperture erano deboli, Francoforte in apertura segnava meno 0,8%, ma naturalmente tutti i dettagli e gli aggiornamenti li vediamo tra un attimo. Borse in diretta. Isabella, buongiorno. Isabella Tasso, Radio Cor, buongiorno. Dunque, ripartiamo dagli indici. Dicevo, l'apertura di questa mattina, ho citato Francoforte per dare un quadro europeo, era negativo. Ora sono passate un po' di ore, a che punto siamo? Ma guarda, le borse restano prudenti a metà seduta, ci sono un po' di realizzi dopo la corsa di ieri e in attesa delle decisioni della Riserva Federale Americana sulla politica monetaria degli Stati Uniti, attese in serata. In calendario per oggi c'è anche un importante dato sul PIL statunitense nel primo trimestre. Le borse, dicevamo, restano prudenti in attesa di queste informazioni. Piazza Affari, FTSE Share cede lo 0,48%, FTSE MIB lo 0,57%, perde lo 0,41% Parigi, mentre Londra e Francoforte si sono riportate intorno alla parità. Ecco, su Londra e Francoforte abbiamo citato in altri contesti la vicenda Alstom, ci sono diciamo segnali che spiccano nei listini europei, singole società che si staccano dal gruppo stamane? Ci sono, il focus resta a Parigi su Alstom, appunto, che è stata riammessa alle contrattazioni, è partita con un più 9%, il consiglio d'amministrazione del gruppo ha dato l'ok all'offerta per GE, ma il governo francese ha detto che i giochi sono ancora aperti. Intanto Siemens, la tedesca Siemens, ha rilanciato. Grazie mille, grazie a Isabella, grazie di essere stata con noi anche oggi, e adesso direi che voltiamo pagina. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Dall'osteria Cesari, dove Giorgio Morandi prendeva le sue bottiglie vuote, al museo Casa Morandi di via Fondazza al 36, dove l'artista bolognese lavorò fino alla morte 50 anni fa. Bologna ripercorre la vita, le orme di uno dei grandi della pittura e dell'incisione italiana. Giorgio Morandi, protagonista del Novecento, la sua pittura si può definire unica, universalmente riconosciuta, presente in alcuni peraltro dei luoghi più importanti del mondo. La semplicità apparente, quella appunto dei vasi, delle bottiglie, delle ciotoli, che esalta la qualità pittorica. A Bologna dunque l'universo di Giorgio Morandi rivive nell'iniziativa Around Morandi, Natura morta con pane e limone, un inedito progetto a cura dell'associazione Wandering Stars, il cui design, alta cucina, cultura dell'innovazione si sono incontrati sulla via di Expo 2015, oggi che peraltro siamo davvero a un anno da questo evento. Tra i protagonisti di quell'evento bolognese, Massimo Bottura e Marta Pulini, dunque gli chef che hanno lavorato sul ricettario, e un testimone d'eccezione, il maestro Carlo Zucchini, amico dell'artista, garante della donazione Morandi al comune di Bologna, che ci ha raccontato che cos'è il ricettario Morandi. Premetto che io non ho mai mangiato in casa Morandi. che i racconti che non registrai mai, perché potevo farlo, Maria Teresa Morandi ci sarebbe stata, ma io non me la sentivo di andarla con un registratore, quindi faccio capo a una memoria che cerco di tenere sana il più possibile, fuori da ogni tipo di invenzione. Non mi piacciono gli aneddoti, per esempio, però qualcuno c'è. E allora il ricettario Morandi era questo: la mamma di Morandi per qualche via era parente di signori di Bologna, che non nomino perché non ricordo esattamente la famiglia, ma una di queste famiglie senatorie importantissime, e da quelle famiglie partiva tutto un dettato circa l'arte culinaria, e lei se n'era appropriata, questa donna. La mamma era, come molte signore di Bologna, specie se avevano contatti con queste famiglie benestanti, una appassionata di cucina, mica per niente Bologna è una città che ha una fama di grande produttrice di buona cucina. La mamma raccoglieva ricette dappertutto e le interpretava e le faceva. Poi le figlie assunsero questo atteggiamento. Quando le figlie, le tre figlie, andarono come maestre in Egitto ad insegnare, come maestre, là continuavano a raccogliere ricette anche strane che mandavano a Bologna. Per cui il riso col curry, che spaventò Brandi, il grande critico Brandi, un giorno va da Morandi, dice, lo scrive lui nel suo testo, dice, ma come, mi aspettavo di trovare i soliti tortellini, il solito friggione, invece mi trovo lì davanti con del riso al curry, un vino tutto particolare della Romagna, poi tuttavia rimasi sconvolto. E allora io, che ero un curioso, cominciai a indagare, ma spontaneamente, presso la sorella Maria Teresa, la quale mi spiegò moltissime cose degli atteggiamenti della famiglia a tavola. E lì cominciano le meraviglie che hanno portato, senza enfasi, intendiamoci bene, meraviglie perché, ecco, la figura deformata di Morandi poteva anche far pensare che lui fosse come il Pontormo, uno che mangiava a caso, digeriva a caso, aveva dei disturbi di stomaco e buona là. Invece no, la famiglia a tavola aveva un comportamento, diciamo, tradizionale, tuttavia nobilissimo. A Giorgio, come dicevano loro, piacevano le novità. Avevano uno sguardo anche furbo nel dire, quel giorno che gli presentammo, per esempio, le quaglie al nido, si meravigliò molto, gli piacque molto. Necessariamente una tovaglia di lino bianco, dei grandi tovaglioli, diceva che nelle fessure di un piatto rotto potevano nascondersi dei microbi. Lui era molto preoccupato per la propria salute. La tavola doveva essere, e ogni giorno, quotidianamente, un punto di incontro verso l'ordine, l'eleganza e racconti davvero sul sorriso. La tavola di un grande artista raccontata da un testimone, e potete ritrovare e approfondire questo percorso sul sito www.aroundmorandi.com. E ora cambiamo pagina. Invece, alla vigilia del 1° maggio torna un dibattito che in sostanza è negozi aperti, negozi chiusi, le posizioni naturalmente sono divise. Abbiamo con noi Stefano Crippa, responsabile area comunicazione e ricerca di Feder Distribuzione, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei rappresenta la grande distribuzione, lo dice il nome stesso, voi siete favorevoli. Ora, innanzitutto, quanto rappresenta la grande distribuzione sul totale del commercio, appunto, alimentare, del commercio nelle città italiane? La grande distribuzione rappresenta tanto, diciamo, se dobbiamo comprendere sia i negozi alimentari che quelli non alimentari, quindi dei grandi magazzini, negozi specializzati nei mobili, eccetera, rappresenta circa il 60% di tutte le vendite che vengono fatte in Italia. Circa il 60% dei volumi, naturalmente sul discorso dei numeri evidentemente è diverso. Perché si crea sempre questa spaccatura tra piccoli e grandi? Perché voi insistete nel tenere aperto il 25 aprile e il 1° maggio? Ma perché noi siamo convinti che sia un servizio ai consumatori, cioè come hanno la possibilità di andare al ristorante, di andare a un cinema, di entrare in un museo, in molti casi, così riteniamo che avere la possibilità anche durante le domeniche, nei giorni festivi, di poter andare a fare la spesa, di poter andare a comprare qualsiasi oggetto, per esempio, avendo più tempo a disposizione, più calma, insieme a tutta la famiglia unita, eccetera, sia un'opportunità che al consumatore vada data. Questo